Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Sandro Parisotto. Scarpa da oltre 80 anni sulle montagne del mondo. Di Anna Marino. Scarpa è una storica manifattura del Trevigiano che produce scarpe tecniche per gli sport di montagna, sci, alpinismo, climbing, e nasce ad Asolo nel 1938 da una collaborazione tra Angelo Brugnolo, prevosto della cittadina, e da Rupert Edward Cecil Guinness, membro della famiglia meglio nota per la birra e per il famosissimo Libro dei Record. Un'iniziativa per dare una risposta occupazionale alla gente del luogo, voluta dall'uomo d'affari anglo-irlandese e ricco proprietario terriero, che proprio ad Asolo abitava nella villa in cui aveva vissuto Eleonora Duse, soprannominata la Divina e considerata la più grande attrice teatrale della sua epoca e una delle più grandi di tutti i tempi. Nel 1956 Luigi Parisotto, che aveva lavorato come apprendista nella fabbrica Scarpa durante la guerra, rilevò la società insieme ai suoi due fratelli, Francesco e Antonio. Tuttora l'azienda, che ha oltre 80 anni di storia, è di proprietà della famiglia Parisotto. Ha un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, di cui l'80% derivante dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Sandro Parisotto, seconda generazione della famiglia fondatrice, ai posti di manovra con la sorella Cristina e il cugino Davide, così racconta il territorio dove da sempre ha sede l'azienda, Asolo, il borgo veneto vicino a Treviso. Vivendo qui ad Asolo, che è una zona abbastanza collinare e comunque a 2 ore dalle nostre Dolomiti, è logico che la passione per la montagna, per le passeggiate in montagna, mi è sempre rimasta. Con la ristrutturazione che stiamo facendo e completando nello stabilimento di Asolo, adesso la mia visione è proprio sulle colline asolane. È logico che qua, quando mi vedo che il sole splendente che illumina le colline dell'Asolano, la voglia sarebbe quella di lasciare il posto di lavoro e di incamminarmi nei boschi, nei sentieri dell'Asolano, per farmi 1 ora 2 di camminata, salutare. Questo è lo spirito che guida da sempre l'azienda, fin dagli albori. È quello della sfida e della solidarietà, che sono i sentieri guida della montagna. Così Sandro Parisotto racconta gli inizi. Correva l'anno 1938 quando Lord Rupert Edward Cecil Guinness, della famosa famiglia Guinness della birra e dei record mondiali, che era un filantropo e un politico e anche un imprenditore, fondava la società calzaturiese Asolani Riuniti Pedemontana Anonima, da cui deriva l'acronimo appunto di Scarpa. E lo fece assieme al parroco di Asolo. A quel tempo non era ancora il sindaco, ma si chiamava il podestà del territorio. Siamo ad Asolo, nel Trevigiano, un'area che già inizia a distinguersi per alcune attività artigianali, in particolare nella lavorazione della pelle, e che diventerà poi nei decenni la zona come il distretto mondiale dello sport system. Diciamo che Asolo è sempre stata una città conosciuta dagli inglesi come luogo di villeggiatura. Principalmente la loro base d'appoggio era Venezia, per i traffici marittimi che c'erano con il Regno Unito, ma molti inglesi lord preferivano un po' venire nell'entroterra veneziano per trascorrere delle vacanze estive. E Lord Rupert Edward Cecil aveva stabilito ad Asolo la sua residenza estiva. Nel 1956 i destini della famiglia Parisotto si fondono con quelli dell'azienda che diventerà l'impresa di famiglia. Luigi, Francesco e Antonio, già imprenditori nel ramo delle calzature da montagna, la rilevano, salvandola dai debiti e risollevandone le sorti. Sandro Parisotto racconta come suo zio Luigi, quando aveva soltanto 12 anni, in pieno conflitto mondiale, era entrato in fabbrica, spacciandosi per il proprio fratello maggiore, Francesco, pur di ottenere quel lavoro. Dei tre fratelli era mio zio Luigi che ha lavorato nell'impresa Scarpa ancora prima che diventasse della famiglia Parisotto, e per farsi assumere in quanto minorenne ha dato il nome di mio papà maggiorenne. I nostri genitori avevano già fondato un calzaturificio in un'altra località e sono venuti a conoscenza nel 1956 che Lord Rupert appunto voleva un po' uscire da questo business per ritornare nel suo paese nativo. E da lì è iniziata, diciamo, l'avventura di scarpa sotto la famiglia Peugeot. È rimasto da sempre lo stesso nome delle origini, Scarpa, un acronimo, mentre la produzione, all'inizio di dimensioni familiari, ha seguito nel tempo il principio della sostenibilità nei materiali. Noi abbiamo lasciato il nome originale, perché il nome originale appunto è Scarpa, che sta per Società Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anonima. Una volta si andava con scarponi di cuoio, con la suola in gomma, all'inizio forse neanche quella, c'erano ancora le suole in cuoio con i chiodi, quindi è stata un'evoluzione continua, diciamo, della prima scarpa di calzatura montagna. La linea di demarcazione per lo sviluppo di scarpa è stata più, diciamo, negli anni 60-70, quando c'è stata l'introduzione della plastica nel nostro settore e quindi quando si sono sviluppati i primi scarponi da sci. A quel tempo i nostri genitori hanno deciso di fare una scelta condivisa e di non andare verso il settore delle materie plastiche, anche se adesso oggi ne utilizziamo una parte, ma di rimanere nel settore montagna, dove forse l'utilizzo di fibre, pelle, gomma erano più consone alla loro attività. Sul versante della sostenibilità, Scarpa sta facendo un cammino costante anche oggi, ad esempio per gli edifici dell'azienda o con l'utilizzo di un materiale totalmente biologico, ricavato dal ricino, al posto delle plastiche tradizionali. A livello di materiali plastica e nella nostra collezione Scarponi e Cernismo, la gamma completa è in Pebax RNU, che è un materiale plastico che è ottenuto dalla pianta del ricine. È un materiale che è biocompatibile, quindi non è un materiale che non può essere più riciclato. La cosa su cui stiamo lavorando, oltre allo scafo, perché lo scafo è una parte dello Scarpone da Cernismo, è di sviluppare anche tutti gli altri componenti in modo che lo scarpone diventi un prodotto riciclabile al 100%. Stiamo lavorando in colle nell'applicazione della suola in gomma alla tomaia. Le combinazioni sono diverse e quindi qui c'è la necessità di ulteriori sviluppi e di ulteriori innovazioni. E molte delle innovazioni, racconta Sandro Parisotto, arrivano dalla stretta collaborazione negli anni con i migliori alpinisti. In passato abbiamo collaborato con famosi alpinisti che hanno messo delle pietre miliari nella storia dell'alpinismo e che purtroppo oggi non sono più con noi. Sono nella memoria storica di Scarpa. Uno tra questi sicuramente è Renato Casarotto, poi un altro è Jerzy Kukuczka, uno dei famosi alpinisti che ha raggiunto tutti i 14.800 miglia. Abbiamo avuto collaborazioni con Reinhold Messner e con Walter Bonatti per entrare nei nostri giorni, dove collaboriamo con alpinisti del livello di Hervé Barmas, noto alpinista italiano. Abbiamo anche degli alpinisti a livello mondiale. E dopodiché ci spostiamo nel settore dello sciabilismo, dove collaboriamo con Robert Antonioli, che è già campione del mondo del 2019, lo è anche nell'anno 2020, anche se il circuito delle gare di sciabilismo purtroppo è stato interrotto a causa di questa situazione che si è venuta a creare nel mondo. Per poi passare nel settore dell'arrampicata, dove collaboriamo con Jessica Pils, un'atleta austriaca anch'essa campione del mondo, dove atleti che fanno parte del team Scarpa, quattro erano stati qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per il primo evento di gare d'arrampicata, in quanto il climbing sarebbe diventato sport olimpico. Adesso non si tratta più di produrre calzature per l'alpinismo tecnico, anche se continuiamo a farlo, ma di produrre quelle calzature che comunque permettano a un utente normale di farsi la camminata lungo fiume, in città o nei parchi. Da sempre le maestranze arrivano dal territorio e per questo Scarpa rimane radicata qui. Nel bacino dell'Arano abbiamo sempre trovato quelle maestranze che sono state necessarie per sviluppare la nostra attività e quindi dobbiamo essere riconoscenti a tutti i nostri dipendenti che hanno collaborato con noi in questi 80 anni di storia, quelli che sono in pensione e quelli che ci hanno lasciato, ma principalmente quelli che attualmente collaborano con noi nello stabilimento di Arno. Abbiamo sempre pensato che diciamo quello che comunque l'azienda sviluppa in termini di business deve comunque rientrare nel territorio. E la filosofia della famiglia Parisotto e di Scarpa è il messaggio stesso che ci danno la montagna e lo spirito dell'alpinista. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.